La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato all'ultimo libro dello storico Guido Krains, Il paese reale, dall'assassinio di Aldo Moro all'Italia di oggi, appena pubblicato da Donzelli. Il volume è parte di una trilogia. Il primo del 1996, Il miracolo economico. Il secondo del 2003, Il paese mancato. Guido Krains è oggi ospite ai nostri microfoni. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alla rivista Playboy e al suo fondatore Hugh Hefner, che con il suo impero mediatico ha dato nuova forma al panorama sociale e sessuale americano. Ma ora la parola va a Dino Pesole. La fine degli anni 70, culminata con il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, rappresenta un punto di passaggio fondamentale nella storia recente della nostra Repubblica. Si prepara in quegli anni una svolta che porterà a quella che comunemente viene definita la Seconda Repubblica. Agli ultimi cupi sussulti del decennio morente si intreccia l'emergere di enormi trasformazioni che investono l'economia e la cultura, il privato e il pubblico, la politica e la comunicazione. Nella convulsa stagione degli anni Ottanta si ripropongono quelle tendenze esasperate all'affermazione individuale, quello sprezzo delle regole, atteggiamento predatorio viene definito nei confronti del bene pubblico, già apparsi negli anni del miracolo. Al tempo stesso giunge al punto estremo di crisi un sistema dei partiti sempre più portato a esaudire gli egoismi di ceto pur di ottenere il consenso. Di tutto questo tratta il nuovo libro di Guido Krains, Il paese reale, dall'assassinio di Aldo Moro all'Italia di oggi, appena pubblicato da Donzelli, un libro che chiude una sorta di trilogia, dal primo volume del 1996, Il miracolo economico, al secondo del 2003, Il paese mancato. Ora Krains getta lo sguardo sul nostro passato più recente. Per molti versi, i lunghi anni Ottanta si presentano come un luogo di incubazione del nostro presente. Il nesso fra gli anni di Craxi e l'era berlusconiana ha qui le sue radici e in questo scenario si collocano le domande che oggi ci incalzano. Perché l'anomala alleanza di centrodestra che si affermò inaspettatamente all'alba della Seconda Repubblica riuscì a influenzare largamente l'intero ventennio successivo? Quali sono le ragioni della quasi ventennale stagione di Berlusconi e che Italia ci lascia quella stagione? E ancora, ci sono le energie e le qualità per affrontare una difficile ricostruzione e misurarsi con la crisi internazionale che chiama in causa l'identità e il futuro dell'Europa? Da dove prendere l'avvio per invertire il degrado di un sistema politico e di una partitocrazia senza i partiti che ha superato ogni livello di guardia? Si parte dall'evento forse più drammatico, il rapimento di Aldo Moro il 16 marzo del 1978. Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un commando di terroristi. Inaudito, ripetiamo, incredibile episodio avvenuto davanti all'abitazione del parlamentare nella zona della Camilluccia. C'è da aggiungere che la scorta dell'onorevole Moro era composta da cinque agenti, sarebbero tutti morti. Il 9 maggio il corpo di Aldo Moro viene ritrovato in una Renault rossa parcheggiata in via Caetani. Quasi un quarto d'ora alle 15 e, come vedete, la macchina è una Renault 4 antirossa e dentro c'è il corpo di Aldo Moro. C'è il timore che ci possa essere anche dell'esplosivo collegato con la macchina e ci sono degli artificieri, da lontano non riusciamo a riconoscerci, pare degli artificieri dell'artiglieria, dell'esercito, che stanno tentando di aprire il cofano della macchina. L'operazione sembra abbastanza laboriosa, ci pare che con una leva, con un pezzo di ferro, un ufficiale, un alto ufficiale dell'artiglieria stia tentando di aprire il cofano della macchina. Il corpo di Aldo Moro è disteso, sul sedile posteriore della utilitaria, della piccola utilitaria francese. Il suo viso è molto emaciato e sciupato, ci hanno detto due poliziotti che tornavano da lì, a noi non è stato consentito di avvicinarci, e sul suo viso molto pallido, sciupato, per fin troppo semplice pensare a tutte le sofferenze di questi oltre 50 giorni di prigionia, Aldo Moro però in viso non avrebbe alcuna traccia di ferita, solo un viso molto stanco, emaciato, pallido, ricomposto nel sonno supremo della morte. Abbiamo in linea il professor Guido Krains, docente di storia contemporanea alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo, che è autore di questo bel libro che ha ispirato la nostra trasmissione odierna. Buonasera professor Krains, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi e grazie a voi per l'invito. Allora, le volevo chiedere subito, questo suo nuovo libro chiude una sorta di trilogia che lei ha avviato negli anni scorsi, dal miracolo economico al paese mancato. Si parte dalla fine degli anni 70, con quella che poi culminerà con un termine giornalistico in realtà, che è la cosiddetta, la fine della cosiddetta Prima Repubblica. Lei si identifica in questo passaggio? Ma guardi, il termine Prima Repubblica collocato nel 93-94, insomma, è entrato nell'uso, diciamo. Io credo che in realtà sia proprio con l'assassinio di Moro, con la fine degli anni 70, si concluda una prima parte della vicenda della Repubblica. Del resto non solo, sia anche storici di diverso orientamento, da quello laico di Piero Craveri a quello cattolico di Andrea Riccardi, hanno visto simbolicamente nei funerali di Moro i funerali della Repubblica, l'espressione di Riccardi, ed è secondo me molto felice, cioè termina una fase della vicenda repubblicana, e già si vedono alcuni tarli, già si vede, diciamo, quello che si svilupperà negli anni Ottanta, e sono i nodi che erano stati il lucidissimo rovello dell'ultimo Pasolini, cioè l'intrecciarsi della crisi del palazzo, ma anche di una mutazione antropologica del paese che lo modificava in peggio, per dirla in estrema sintesi. In quella fine degli anni 70 sono presenti tutti i mali, alcuni effimeri e destinati a svanire per nostra fortuna, come quello del terrorismo, ma sotto, oltre a quei mali, ve ne erano altri destinati ad essere più profondi. È proprio la corrosione delle istituzioni e anche un'evoluzione del paese sono al centro di questi mali, e si svilupperanno pienamente negli anni 80. Da questo punto di vista io capisco che ci sono molte ragioni per usare, anch'io lo uso, insomma, il termine di Prima e Seconda Repubblica collocandolo nel 94, ma io credo che noi siamo figli degli anni 80, cioè che l'Italia di oggi sia larghissimamente e negativamente figlia degli anni 80, per questo penso l'ultimo capitolo, paragrafo del libro ha come titolo Una ricostruzione difficile, e ricostruzione si intende con la R maiuscola, esattamente come avvenne alla fine della Seconda Guerra Mondiale, una ricostruzione complessiva anche dell'etica del paese. Professor Krains, siamo figli degli anni 80 anche, ai noi, per effetto del raddoppio del debito pubblico di cui lei fa cenno nel suo libro, e quindi è uno, come dire, dei lasciti che quel periodo ci ha consegnato e ha consegnato alle generazioni future. Questo è un dato centrale che non va rimosso, nelle sue dimensioni economiche, perché noi entriamo in quel decennio con un debito pubblico già elevato, però è ancora sotto a quelli che saranno i livelli di Maastricht, diciamo, no? Maastricht prevedeva il 60% del prodotto interno lordo. Entriamo negli anni 80 che siamo al 58-59%, entriamo negli anni 90 che siamo al 120-125%, cioè il macigno di oggi, ma quel macigno ha delle conseguenze etiche, civili, incivili, se vogliamo dire più esattamente, rilevantissime. Cioè l'attitudine all'irresponsabilità, al non pagare dazio, al rovesciare sulle generazioni future i nostri guasti. Questo è un dramma vero del paese e implica la sua etica. Da questo punto di vista siamo davvero figli degli anni 80, e da questo punto di vista davvero bisogna invertire la tendenza radicalmente, non solo rispetto al ceto politico. E c'è un'illusione che non dobbiamo rifare, ma devo dire mi sembra che nessuno oggi ne sia partecipe, l'illusione degli anni di Tangentopoli, l'illusione cioè che la corruzione riguardasse solo il ceto politico e che appunto una incorrotta società civile fosse pronta ad affermarsi spazzando via il proporzionale, il ceto politico e così via. Non è andata così, cerchiamo di spiegarci perché. Nel suo viaggio all'interno del nostro ultimo ventennio si arriva obiettivamente e inevitabilmente alla crisi del sistema dei partiti, Tangentopoli, appunto la Seconda Repubblica, con degli eventi che si susseguono, che lei tratteggia e racconta con molta precisione, che in qualche modo possono far richiamare anche quello che sta avvenendo da noi in questo periodo, non a caso, ancora una volta, crisi finanziaria, crisi politica, quindi la storia si ripete, professore. Diciamo, questo è per certi versi, anche se naturalmente la storia non si ripete mai, Marx diceva si ripete prima come tragedia, poi come farsa. Io ho l'impressione che se si ripete sarà una tragedia peggiore della prima, non una farsa. Alcuni momenti, diciamo, la crisi è inevitabilmente un momento di verità, ci impedisce di ingannare noi stessi, ci costringe a fare i conti con la realtà, ci impedisce appunto a rimuoverci a un momento in cui noi non possiamo più riversare sui decenni e le generazioni a venire le nostre colpe, dobbiamo farci i conti, e non solo perché ce lo chiede l'Europa, anche allora, diciamo, in qualche modo alcuni nodi vennero al pettine con il trattato di Maastricht, l'Europa ci ha costretti ad essere virtuosi, questa è semplicemente la verità, ci ha costretti allora e ci ha costretti oggi. Da questo punto di vista la storia in qualche modo si ripete, ma quello che si ripete davvero è quello che porta a questo, cioè l'irresponsabilità di un ceto dirigente ma anche di un paese. Grazie professore. Grazie a voi. Bentornati alla seconda parte della Storia e la Memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alla rivista Playboy e al suo fondatore Hugh Hefner, che per oltre 60 anni ha sfidato una cultura molto restia, spaventata ed ostile. Oggi in America si vedono ovunque prove evidenti di un atteggiamento sempre più aperto nei confronti del sesso, ma un tempo le cose non stavano così. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 10 dicembre alle 21 su History Channel. Negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, l'America cerca di godersi la vittoria sul fascismo abbracciando due dottrine rassicuranti: il consumismo e il conformismo. La libertà sociale e sessuale che le donne e gli uomini americani hanno sperimentato durante la guerra è ora tenuta a bada da un rigido codice morale che predica le virtù del matrimonio e della monogamia. Gli uomini devono essere mariti e padri, e le donne devono lasciare il loro lavoro, sposarsi, crescere i figli e restare a casa. Alice Eccles, docente di studi di genere e inglese all'Università della California del Sud. Negli anni 50 le donne si sono trovate di fronte ad un'incredibile propaganda. Il messaggio diceva alle donne che avrebbero trovato la loro più grande realizzazione nell'essere mogli e madri. E dopo i disagi e le difficoltà degli anni della depressione e della guerra, molte di loro hanno pensato che le cose stessero effettivamente così. Christina Hoff Sommers, autrice di Chi ha rubato il femminismo. Si credeva ancora che ci fosse una distinzione tra brave ragazze e cattive ragazze. Bisognava mantenere la virginità fino al matrimonio. La perdita della virginità e la sessualità venivano associate all'idea di peccato. Alan M. Dershowitz, docente Harvard Law School. Negli anni 50, quando ero un adolescente, tutti ovviamente eravamo interessati al sesso, ma era praticamente inaccessibile. Secondo il governo, il sesso corrompeva, era immorale, era contro i principi religiosi. Il codice Hays nel cinema vietava di mostrare scene erotiche o di nudo. Per la sessualità era come essere tornati al Medioevo. Per contrastare l'idea che il sesso sia il tabù per eccellenza del dopoguerra, esce l'opera del dottor Alfred Kinsey. Pubblicato nel 1948, Il comportamento sessuale dell'uomo sciocca profondamente il pubblico americano fino alle sue radici più puritane. Elizabeth Fraterrigo, autrice di Playboy and the Making of the Good Life in Modern America. Praticamente affermava che le norme sociali relative al sesso non erano in sintonia con la pratica sessuale. La gente a parole diceva che il sesso doveva essere limitato al matrimonio, che bisognava aspettare di essere sposati, e il rapporto Kinsey dimostrava quanto tutto questo fosse falso. Ma c'è un uomo che considera l'opera di Kinsey un'ispirazione e non uno shock. Si tratta del 27enne originario di Chicago, Hugh Marston Hefner. Come molti della sua generazione, questo marito e padre non vuole vivere secondo il conformismo della classe media in una tacita disperazione. Hugh Hefner, fondatore di Playboy. Senza ombra di dubbio, ero molto stressato e pensavo che dovesse esserci qualcosa di meglio per me e per molti altri come me. Mi interessava la connessione romantica tra i sessi. Gli uomini venivano definiti come individui che lasciavano la moglie a casa e uscivano con altri uomini per giocare a bowling, per andare a caccia o a pesca. Ma a me queste cose non interessavano affatto. Negli anni 50 l'Esquire, che aveva avuto qualche influenza su di me quando ero più giovane, non esisteva più. Avevano tolto le pin-up, le vignette, tutto ciò che era un po' osé era sparito. Si era trasformata in una rivista di interesse più generale. La società era diventata molto più conservatrice e io, per la vita che facevo, mi ci rispecchiavo. Perché ero cresciuto in una famiglia molto conservatrice e repressiva, una famiglia in cui ci si abbracciava e ci si baciava poco. E l'idea che sarei cresciuto e diventato come i miei genitori mi angosciava molto. Con poco più di $8,000, investiti per la maggior parte dalla famiglia e dagli amici, Hugh Hefner si siede al tavolo da cucina del suo modesto appartamento di Chicago e inizia a lavorare al progetto dei suoi sogni. Una rivista intitolata Stag Party. Ancora Hugh Hefner. Mi sono ispirato a un fumetto degli anni 30, intitolato The Stag at Eve, il cervo alla vigilia. Volevo usare questo animale come figura maschile principale, ma all'ultimo ho ricevuto un'ordinanza dalla rivista Stag. Per loro, la mia Stag Party violava il copyright. Art Paul, direttore artistico e fondatore di Playboy. Abbiamo iniziato a pensare ad altri nomi. Eravamo io, F ed Elton Sellers, un suo amico che stava cercando di raccogliere fondi per questo azzardo editoriale. E poi, mi pare proprio la sera dopo, F mi ha chiamato praticamente in piena notte dicendo: «Che ne pensi di Playboy?» Ancora Hugh Hefner. Decisi di cambiare l'animale, da cervo a coniglio, perché mi sembrava allo stesso tempo scherzoso, ma in qualche modo sexy e sofisticato. Negli anni 50, gli americani, che stanno vivendo il passaggio dalla radio alla televisione, hanno anche voglia di nuovi contenuti rispetto a quelli trovati nelle riviste di interesse generale come Look, Collier's ed Esquire. Iniziano così ad uscire pubblicazioni nuove e più specializzate, relative a temi di ogni genere, dalle automobili alla caccia, dallo sport all'umorismo e all'intrattenimento. Ancora Hugh Hefner, fondatore di Playboy. L'idea alla base di Playboy era quella di creare una rivista nuova, sofisticata, per giovani uomini, perché l'Esquire si era sempre rivolto a uomini più maturi e borghesi. Su Playboy vengono pubblicate storie, articoli su musica, cibo, vignette e foto di donne bellissime. Spesso nude. Keith Hefner, fratello di Hugh Hefner. Al massimo c'erano riviste dove si vedevano donne in costume da bagno, ma nessuna trasmetteva l'idea di uno stile di vita più sofisticato. Con una mossa astuta che garantirà notorietà alla rivista, Hefner compra anche i diritti di una foto ardita e rarissima di una giovane Marilyn Monroe, che posa nuda per un calendario. Presentata come la dolcezza del mese, l'attrice diventerà così la prima di quelle che saranno poi conosciute come playmate della rivista. Nel dicembre del 1953 la rivista Playboy esce nelle edicole, senza una data, dal momento che Hefner non è sicuro se ci sarà mai un secondo numero. Keith Hefner, fratello di Hugh Hefner. Sapeva che ci sarebbero state molte critiche, che non sarebbe stato facile, ma era qualcosa in cui lui credeva davvero e sentiva che era arrivato il momento di discuterne. Voleva cambiare un po' il mondo. Ora, a questo giovane di Chicago non resta che incrociare le dita e sperare per il meglio. Pochi giorni dopo l'uscita del primo numero di Playboy, la rivista vende un numero di copie sufficiente da incoraggiare una seconda uscita. Poi una terza e una quarta. È ormai ovvio che Hugh Hefner ha creato qualcosa. E questo qualcosa è grande. Hugh Hefner, fondatore di Playboy. È stato un enorme successo già dall'inizio. Io stesso sentivo di aver colpito nel segno già dai primi 2 o 3 mesi, perché avevo abbastanza soldi per pubblicare un altro numero. Ma Hefner sa che la chiave per mantenere il successo della rivista è continuare ad alzare la posta. È deciso a rendere la sua rivista sempre più bella, più audace e ancora più accattivante. Ancora Hugh Hefner. Prima di Playboy, le illustrazioni sulla maggior parte delle principali riviste erano come quelle di Norman Rockwell, molto realistiche, come delle fotografie. Playboy ha cambiato tutto questo. Le illustrazioni in Playboy potevano essere realistiche, semi-astratte o totalmente astratte. Arthur Paul, il mio direttore artistico, ha sottigliato i confini tra belle arti e arti commerciali. Art Paul, direttore artistico e fondatore di Playboy. Ho iniziato a pensare che le belle arti e le arti commerciali non dovessero essere separate, per dirla con le parole di Andy Warhol. Quando ad una mostra di Playboy un suo amico pittore disse: «Ehi, cosa ci fai con questi artisti commerciali?» Lui rispose: «Tutta l'arte è commerciale». Jimmy Jelinek, caporedattore, Playboy Enterprises Inc. Playboy è stata la prima rivista a sponsorizzare uno stile di vita specifico. L'idea di un uomo che è fatto di una miriade di influenze, che è un uomo che ha gusto, raffinato, è un uomo che capisce la sua cultura e il contesto da cui deriva. Sexy non è solo l'apparenza, ma anche la mente. Avete appena ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Playboy, l'impero del nudo, regia di Kevin Burns, titolare dei diritti AETN, casa di produzione Prometheus Pictures. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 10 dicembre alle 21 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.